Io invece sai, pensavo che secondo me la birra, ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Posso dura, dura su missione, no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Belli di casa, bentornati qui su Runtime Radio, runtimeradio.it. Sono le ore 9 passate, finalmente siamo tornati a questo nostro meraviglioso programma pop del mercoledì sera, sperando che questa volta la linea regga, ma pare di sì, non so da che cosa lo sto deducendo. Marco Gualdi, ma sono sicuro che la linea questa sera... Esatto, però c'è, purtroppo c'è la base di sottofondo che ti incula, Gualdi, mi dispiace. Dovrei far così, guarda, questa sera che... Capito? Così dovremmo fare. Ah, ok, perfetto. Però magari io ero collegato da... Walter Sbano! Ma questa è scarsa coordinazione, poi lo sapete meglio di me come funziona. La linea regge fin quando non regge, quindi non si può fare nessuna previsione, non c'è l'oracolo. Comunque buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera Carmine Puccio, console. Ma il problema non è la linea, il problema è il sonno, quello mi può cascare addosso da un momento all'altro. Va bene, leviamo questa musichetta, mettiamo quella che sarebbe il background musicale. Era molto allegra, ci stava caricando tantissimo. Lo so, e quella è l'intro che ci sta adesso. Adesso la morte. Sì, esatto. Beh, ma portiamo, come giustamente ha detto Walter, alla fine delle orazioni della sera, sono quelli di OGM, quindi alla fine OGM. In realtà no, però dai, un po' diverso, perlomeno. L'importante... È un po' porno. Magari, è un po' magari. Corner. Tra l'altro, sapete che oggi ho visto, e poi iniziamo con le discussioni, ho visto una reaction di due youtuber che seguo allo scherzo che hanno fatto a Rocco Siffredi, che mi è sembrato un po' fake, devo dire la verità. Mi sembra un po' fake. Che scherzo hanno fatto a Rocco Siffredi? Gli hanno fatto credere di doversi amputare l'uccello? No, cosa che gli interessa. No, praticamente c'era questo tizio che entrava, diciamo, nel pre-scena di film che stava girando, perché Rocco Siffredi stava girando questi film che immaginate, insomma, lui backstage. Che backstage? Lui che sì, esatto, no, nel pre-stage. Sì, sarebbe comunque un backstage. Cioè questo tizio si aggirava praticamente e nessuno gli diceva niente, no? Alla fine praticamente Rocco Siffredi scopa, insomma, per fare quello che fa durante i suoi film. Lavora, prego, sta lavorando. Sbratta chiaramente, insomma, allegramente, e a un certo punto sto tizio va là e raccoglie il suo seme. E praticamente la scena successiva, dopo una settimana, ad esempio dello stesso film ma in un'altra location, mentre che lui stava lì, insomma, ignudo, pronto per entrare in scena e roba del genere, gli dicono: guarda, c'è la polizia, vuole parlare con te. E praticamente gli fanno, insomma, lui dice: no, guardi che qui è tutto consensuale, tutto a posto, tutte norme sul lavoro, tutti sono a posto. Non siamo venuti per quello, siamo venuti perché lei conosce questo tizio, gli fanno vedere la foto del tizio. Cioè sì, lo conosco, cioè nel senso non lo conosco, però l'altro giorno, prima, perché anche in quel giorno c'era sto tizio. Faccio sì, poco fa era qui. Scusate, come era qui? Vabbè, insomma, gli fanno tutte le solite monfrine. Alla fine questo qua era un veterinario che faceva l'inseminazione artificiale dei cavalli, che però nel suo sito, tra la mucca e lo gnu, la faccia di Rocco Siffredi, dicendo che c'era il seme di Rocco Siffredi, che era già andato sold out, ok? E quindi praticamente, insomma, vabbè, a un certo punto comunque la polizia gli dice a Rocco, dice: guardi, vada da questo tizio, gli faccia capire che ha sgamato, che magari vuole riacquisire, insomma, tutto il suo seme. Dice: perché il rischio è che alla fine, se questi qua producono dei figli con questa, lei è legalmente responsabile di questi figli, perché sono suoi figli, no? Che poi no. Ragazzate, però è una puttanata immensa. Sì, no, ma però voglio dire, secondo me lì, a quel punto, secondo me un po', però magari ti prende un attimo il panico, non lo so, cioè nel senso, comunque, vabbè, fatto sta che questo Rocco Siffredi, cioè il poliziotto che ti dice d'andà. E qui mi è sembrato fake lo scherzo, però se fosse stato vero è divertente, devo dire la verità, perché poi Rocco va organizzato, scherzi a parte, quindi potrebbe essere falso. Esatto, sì, sì, pure secondo me è abbastanza finto, però diciamo che tra quelli finti che proprio lo capisci che sono finti, questo tutto sommato ci poteva stare, no? E praticamente lui va a parlare con sto tizio, cioè, no, ma sai, io sono un veterinario, fa, dice, ma lei sta vendendo il mio seme, dice, chi lo dice che sto vendendo? Cioè, alla fine questo pure sfacciato dice, vabbè, ma alla fine sono affari, no, ma ho venduto, so cazzi tu, a me che me ne frega, no? E c'aveva sta provetta, e questo secondo me è dove lo scherzo secondo me è fallito, perché lui il seme l'ha raccolto con un materiale, cioè con tipo un fazzoletto, e l'ha messo dentro una provetta. Però lui poi alla fine, quando stava lì, sta provetta praticamente ce l'aveva a mano, dice, no, ci guardi, se mi dà la provetta, ci guardi, sta arrivando la polizia, è meglio che me la dà a me la provetta. No, no, arriva la polizia, questo prende e se beve tutto quello che sta dentro la provetta. Che poi, diciamo la verità, no? Cioè, lì per lì il senso di schifo ti viene, no? Perché dici, cazzo, se questo si è bevuto la sbobba di Rocco Siffredi, insomma, fa un po' schifo come cosa. Beh, non sarebbe l'unico comunque. No, non sarebbe l'unico. Esatto, però, tutto sommato, alla fine. Però una cosa è quando... Si va prima a cercare chi non l'ha bevuto. Esatto, penso. Sì, però una cosa è che tu lo prendi direttamente alla fonte, bella calda. Oh, tu fotte delle raccolte per terra. Esatto, cioè, esatto. Vabbè. Ma è una questione di batterie. Vabbè, comunque, devo dire che alla fine mi ha fatto sorridere, perché comunque è stato divertente. Che lui è comunque un personaggio. Cioè, nonostante tutto, lui è comunque un personaggio. Cioè, nel senso, non è che è uno che ti sta sui cogelli. Si vede che. E poi quanti anni c'ha? C'avrà 60 anni? No, anche perché ricordiamoci il solito discorso: se Rocco Siffredi ti sta sui coglioni, vale la solita regola, ma è meglio un culo caldo un panza. Esatto, caldo un culo, esatto, sì. Il mondo torna tutto sempre lì, eh? Sì, perché poi secondo me lui fa distinzione, ma fino a un certo punto, eh? Cioè, perché secondo me non lo sta infogliato, però devo dire che ha 59 anni. 59 anni, ne fa 60. Ecco, appunto, allora fisicamente è super in forma. E poi questo fa ancora i film porno, cioè nel senso va là e... Sì, perché pare, vi ricordate che lui qualche anno fa ha provato a smettere, però è talmente sex addicted che sta male se non lo fa. Probabilmente sì, perché nella vita normale non puoi scopare quanto scopi nei film porno. No? A un certo punto ha detto, questa è una dipendenza, bisogna smettere da queste dipendenze, fanno male... Ma che cazzo mo fa? Ma perché? C'è una dipendenza, no, anche che... Anche sto sommato sti cazzi. Tra l'altro poi il poliziotto, quando lui a un certo punto gli dice no, perché l'unica soluzione purtroppo è sold out, ma l'unica soluzione sarebbe di comprare tutto il seme, no? Fa, dice, scusa, ma quanto... Cioè, 2 bitcoin. Cioè, e quanto sarebbe? 80.000 euro. Michela che ci dice, che salutiamo la nostra, anzi Mercedes che ci saluta dalla sua serata libera, dice che ci puntualizza che Rocco Siffredi ha una casa di produzione in Ungheria. Sì, questo perché è una questione puramente legale. In Italia è vietato girare film porno, non so se lo sapete. Sì. Cioè, nel senso, si possono distribuire, si possono vendere, però non si possono girare, di conseguenza spesso sono società che fittiziamente sono in Ungheria, poi ovviamente gira in Italia, però poi legalmente queste produzioni, questi girati vengono attribuiti alla società di produzione in Ungheria, che credo dove abbia, diciamo, sua moglie è originaria dell'Ungheria, sì. Comunque sia, ma io però a questo punto, scusate, tanto allargando l'argomento. Non si dice esatto, davanti a Rocco non si allarga niente, scusa. Allarga tutto lui, è quello il punto. La domanda fa tutto da solo, non c'è bisogno. Infatti, ma io certe volte mi pongo la domanda. Allora, se vi è anche capitato di vedere qualche film in cui è protagonista, allora, ce n'è uno in particolare, più di qualche film porno l'ho visto, quindi non è che mi nascondo, mi faccio la domanda, però nel vedere un film porno in cui c'è Rocco Siffredi rispetto ad altri in cui ci siano altri protagonisti maschili X, ma il suo modo, la domanda che mi faccio, il suo modo di fare sesso durante questi amplessi così ha qualcosa di piacevole, nel senso vabbè. Lui prova piacere in quello che sta facendo, lo prova più per la dominazione che sta avendo nei confronti delle partner o cosa? Perché a me, ma tu dici nella vita reale o nei film? Perché nei film perché lui comunque, abbiamo detto, è sex addicted, quindi deve continuare ad avere questo tenore, diciamo, che lo porta a fare tanti film porno, perché deve avere anche tanti rapporti, no? Ma quello che fa sul set, ma gli piace veramente da un punto di vista proprio sessuale, al di là della, diciamo, del concetto simbologico? Devo dire la verità, che non è, visto e considerato come vengono girati, però, però attenzione, visto e considerato come vengono girati i film porno, secondo me lui la distingue la cosa, che poi dopo alla fine comunque c'hai l'orgasmo e tutto quanto, però lì, cioè, quello che tu vedi in 10 minuti loro lo girano magari in mezza giornata, cioè, nel senso, comunque tecnicamente è sempre un film, no? Allora, diciamoci la verità, a lui piace il mondo del cinema, che non è un eufemismo, con tutta una serie di sequenze, cioè, però appunto ripeto, sì, ma gli piace, non lo so, però potremmo provare a intervistarlo, sai, soddisfazione. Io non mi sono spinto a questo livello di osservazione e analisi, onestamente. Cioè, no, però è una domanda interessante. Sì, è una domanda interessante, glielo domanderemo, perché noi una volta lo inviteremo, Rocco, perché sono convinto che se tu glielo dici bene, lui viene. No, sono sicuro che se glielo dici bene, se glielo fai solo capire, secondo lui me. Lui viene sempre. Comunque, un'ombra inquietante. Voi non lo sapete, ma ho appena visto un'ombra inquietante, perché io vedo Puccio in questo momento. Intanto salutiamo Puccio, c'è chi vede la Madonna, tu vedi Puccio, insomma, cioè. Esatto. Salutiamo Luca S e Vincent Valentine, che ci hanno raggiunto questa sera la nostra chat di Lettera Antenne Radio. Luca S dice che se ungherese è porno sovranista, mentre Vincent dice l'importante nei film porno è la sceneggiatura, e la fotografia anche. Di quando lavoravo in videoteca c'erano due correnti di pensiero nette, distinte e contrapposte: quelli che volevano assolutamente la trama e quelli che assolutamente non volevano la trama. Quindi arrivavano e ti chiedevano: ma questo c'ha la trama? Quindi praticamente, senti, ma te pare che io li posso aver visti tutti? Avevo anche 20 anni, certo. Però no, cioè, sennò non tu devi essere passo. Tu devi essere come Randall di Clarks, tu devi aver visto tutto quello che ha affittato. No, ma quindi praticamente il mondo del porno si divide in Gio D'Amato e tutto il resto, cioè, nel senso, praticamente sì, che poi Gio D'Amato, se ci vedete adesso, c'è pure il taglio fotografico, no, con le luci. Concetta Alicata è un must per la storia Alicata. Tra l'altro, Rocco Siffredi, 24 centimetri di pisello per 16 centimetri di diametro, secondo me non è possibile. 16 centimetri di diametro, sì, si può fare. No, dai, 16 centimetri di diametro è così. Di circonferenza, no, di circonferenza. Ah, di circonferenza, sì, okay. Diametro, no. Scusa, sbagliato. Scusate, penso diametro, ma pensate a circonferenza. No, il diametro, io però, infatti, potresti averlo, ma magari mezzo centimetro di spessore. Caso. Il problema è che penso che nessuna donna lo farebbe entrare con un diametro di, cioè, con 16 sono, quanti sono? Sono 16. No, in pollici, per dare un'idea idraulica, sono 8, tipo 7 pollici, no, di meno, 6-7. Guarda, la segreteria, sono quasi 2 centimetri, sono 2,48 pollici, sì, centimetri, sì. Se non ricordo male, dei pollici addirittura, scusate. Usavo la misura idraulica per il calibro, il metro universale. Comunque c'era la segretaria, proprio la segretaria, non la segretaria politica, ma la segretaria, proprio segretaria, della sinistra giovane, anzi no, del Partito Democratico della Sinistra, Federazione Castelli, parliamo, insomma, del primo anno post Partito Comunista, che parlando con una mia ragazza dice: lì, da lì ci entra di tutto e ci esce di tutto. E questa è una cosa che mi ha sconvolto. Quando ho sentito quella cosa, ho detto: io non le voglio sentire queste cose. Però giustamente, ma lì dove? Scusa, perché adesso non vorremmo creare dicotomie. Lì nel senso che, giustamente, se una donna partorisce una creatura dei 4 kg. Scusa, cioè, non avevo capito. Parlava, vabbè, ok. Bene, bene, ragazzi, io prima di iniziare veramente, perché Puccio aveva delle questioni, ma anche Walter, poi c'è il sondaggio. Abbiamo questa volta stranamente abbiamo qualcosa di cui parlare, è incredibile. Io assolutamente no. Tu no, ma io infatti non, cioè, manco, io teoricamente ce l'avrei, ma vedi che non ti ho manco perché, perché, esatto. Volevo ricordarvi dell'Antisaremo 2024, che si terrà il 9 e il 10 febbraio qui su Antenne Radio. Vi ricordo che per partecipare dovete scrivere e cantare una canzone registrata con gli strumenti professionali o col registratore di nonna, di buona nonna, con l'ascella, volendo, pure con l'ascella, esatto. Cioè, l'importante è che sia una cosa originale, non importa la qualità, non importa il concetto, quello che volete fate, l'importante è che mandate materiale a Runtime Radio. Non ve ne uscite con Osteria numero 1000 perché no, è già no, fatta, non è originale, è fatta, non è originale, a meno che non reinterpreti in qualche maniera l'Osteria numero 1000 che fa scintille, esatto, quello lì che poi praticamente, quindi insomma voi mandate questi vostri meravigliosi pezzi fatti anche con l'intelligenza artificiale. Intanto è uscito è uscito Le Orazioni della Sera, eventualmente se ve lo foste persi ce lo trovate, e lo preferiste già a noi in podcast, esatto, e insomma vabbè, mandatelo a runtimeradio@gmail.com, vi faccio sentire lo spot e poi partiamo seriamente. Sei un musicista amatoriale? Hai una band un pochino scalcidrata? Non hai particolari pretese di premi o festival importanti? Beh, allora manda la tua demo a Runtime Radio e partecipa anche tu all'Antisanremo, il concorso musicale nel quale non bisogna mai essere troppo permalosi né pretenziosi. Invia la tua demo a runtimeradio@gmail.com con un file audio aggiuntivo, con una breve presentazione del progetto musicale e del brano inviato. Dai, cosa stai aspettando? In fondo che ci devi fare con quella registrazione fatta in cantina ed editata con GarageBand di Apple? Ti aspettiamo su Runtime Radio. Ecco, sono d'accordo, che ci devi fare con la registrazione? Manda la Runtime Radio che insomma ci fa il Fantasanremo e ci divertiamo tutti quanti insieme. La cosa importante è che alla fine delle due serate, dove tutte queste canzoni si scontreranno fra loro, nessuno vincerà, cioè vincerà qualcuno ma non si vince niente, non più di coglioni, insomma. Ecco, questa è la cosa più importante. Specifichiamolo che a me. Senti, io volevo un attimo concludere il volo pindarico sui tecnicismi di Rocco, sulla settima arte ma a luci rosse, perché il nostro Vincent Valentine in chat nel frattempo ci diceva di aver visto tutti i film della saga di Joe D'Amato di Concetta Ligata 3 volte e dice, parlando dei riferimenti di tecnicismi, dice, parlando di Rocco, dei Diametro e un Tubo Innocenti, ecco. Sì, vabbè, dai, se non d'altronde non farebbe quello che fa se non ci avesse delle doti speciali, insomma, diciamo così. Delle dimensioni, certo, artistiche notevoli. Esatto, perché lui è un po'. Se, è così. Lui è cresciuto col poster di John Holmes in camera e voleva anche lui. E anche la moto, perché credo che lui fosse. Credo che lui avesse questa specie di. Era lui quello che aveva una specie di rampa che gli permetteva di entrare con la moto fino al salotto di casa, ricordo male, tipo alloggiata, qualcosa del questo genere. Questo io non lo so, ma so che io e il mio amico Daniele Diretti l'abbiamo incontrato proprio fuori a un concessionario di moto, quindi evidentemente era una cosa proprio che lo per parlare di tubi innocenti lo asbruzzicava. Va bene ragazzi, io mi levo questa cosa del sondaggio così poi dopo andate voi. Vai. Tranquillamente, allora noi ci siamo posti, noi, cioè tanto arbitrariamente, maiestatis, esatto, arbitrariamente ci siamo posti una questione che è quella di chiedere un po' a tutti che cos'è. Qual è la figura pop più universalmente riconosciuta dell'universo di Star Trek? Che poi c'è da dire, perché poi ognuno ha la sua. Nel sondaggio c'era la tecnologia, la flotta stellare, il futuro, vabbè, insomma, che racconta, i Borg, l'equazione umana, ricordate sempre questa cosa dell'equazione umana che è una cosa importante, il capitano Picard, Spock e i vulcaniani con le orecchie a punta, il capitano James T. Kirk ovviamente, e basta, mi pare, no? Giusto? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Allora se, è facile dire chi ha vinto. Allora Marco, secondo te qual è la cosa più iconica del io Kirk? Secondo te Kirk, ma più iconica nel senso proprio pop, Spock. Buccio? Spock. Walter? No, io vado contro perché cosa c'è di più pop de James, me le scopo tutte Kirk? Vabbè, certo, perché che è un po', voglio dire, per James Kirk che era il copione di John Shepard. Era Rocco Siffredi dello spazio. Esatto. E pure John Shepard, perché esatto, alla fine chi ha copiato chi, chi lo può dire? perché in realtà fanno parte di due futuri diversi. Però comunque ha vinto a mani basse, in maniera quasi inequivocabile, Spock e i vulcanieri con l'orecchio a punta. Questa cosa mi è venuta in mente tanto tempo fa, perché anch'io poi alla fine ho sempre considerato cos'è, qual è l'icona pop di Star Trek con James T. Kirk, perché per me è James T. Kirk, ma in realtà James T. Kirk è il protagonista, così come il Capitano Picard, come tanti altri personaggi, ma in realtà proprio la cosa proprio più iconica di Star Trek è veramente Spock, perché sai quante volte, in particolare una volta mi è capitato di sentire "oh, ma chi sei, Star Trek, quello con l'orecchio a punta?" Cioè, per la gente completamente aliena a Star Trek, cioè alla fine Star Trek è il nome e il cognome di uno che c'ha l'orecchio a punta. Però secondo me no, non era perché pop, ma perché in maniera abbastanza rude e rozza la cosa più facile da stereotipare è un connotato somatico fuori dal comune. Quindi enfatizzare il fatto che in quanto a orecchie a punta c'aveva qualcosa de non normale, quindi te lo ricordavi per quello, un po' come nonno con tre palle, secondo me. Sì, però nella cultura di Kirk è molto più pop, secondo me. Nella cultura, secondo me, degli anni, negli anni 60 e 70, comunque Spock era hippie, cioè nel senso il saluto de fraternanza, cioè le, quante magliette o quadri in pop art abbiamo visto dei Kirk rispetto a quanti ne abbiamo visti di Spock, no? Perché poi alla fine si è un po' iconizzato da quel punto di vista. Però questa cosa vedo che comunque divide un po' il pubblico. Poi adesso vado a leggere, infatti, in menamo, perché poi ti ripeto, parlando di hippie, chi si è fatto più acidi di Kirk? Vedi che torniamo sempre là. Guarda, non te lo so di, secondo me, fra i due. McCoy sì, ma perché aveva feeling ipodermica, però no, ma in casa. Guarda che pure il buon Nimoy, quando cantava Bilbo Baggins, secondo me lì dei lacidi sono scorsi potenti. Erano favolosi anni 60, non ragazzi. Parlo degli attori, parlo dei personaggi. Del personaggio, però devi fare attenzione, perché il vulcaniano, che non è che non ha emozioni, ma reprime le emozioni, poi quando si incazza fa bucio il culo così, eh. Vedi. Bonfart. Il gesto con la mano, esatto, quello là che poi dopo è stato anche ripreso da Nano, te lo metto in mano, che insomma alla fine è comunque in qualche maniera, secondo me Spock, però non voglio averci ragione, però ho visto insomma anche leggendo diversi articoli che anche quello un gesto. Ha dovuto puntualizzare su un chat, perché gesto con la mano è sempre essere interpretazioni. Esatto. Quello è il saluto romulano. Esatto. Qual è il film? Quello là che Ferenghi, mi sa, però. Pure Klingon, volendo. E comunque. Dai, non tirate fuori i Ferenghi, che l'altra volta siamo andati offline mentre parlavamo dello stick. Ah, è vero. Che è un chiaro sabotaggio. Gestito dalla razza Ferenghi. Qui sopra. Sì. Tra l'altro, qual era quel film dove arrivano gli alieni? E i terrestri fanno tipo un gesto di saluto e loro lo interpretano male, e cominciano a sterminare tutti. In realtà era Mars Attacks. Però non è che lo interpretano male, che proprio erano male loro. Quindi. No, qualsiasi gesto avessero fatto li avrebbero sterminati. Ah, li avrebbero comunque sterminati, ok. Io sai che un film non me lo ricordo tanto. Comunque. Guarda, che è una satira politica non da poco. Molto sottile, tra l'altro. Sì. Merita di essere recuperato, secondo me. Vabbè, quindi se è sottile non fa però così freddo. Non gli si adegua. No. Vai, Walter. Cosa? Non so, c'hai il tuo tema, no? Vabbè, allora. È finito, pensavo volessi leggere. Hai detto la chat. Il non c'è nessuno. No, il sondaggio l'abbiamo detto, ha vinto a mani basse Spock e il resto, insomma. Okay. Allora, il mio tema pop, perché dovete sapere che oggi in riunione di redazione a un certo punto qualcuno ha detto: portate un argomento pop. Come un argomento pop? Comunque, allora, in realtà parte da una notizia triste, perché. Mannaggia, non c'ho la musichetta. No, vabbè, però insomma questo è triste davvero, deserto, perché Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills, è una delle protagoniste di Streghe fin quando non è stata cacciata dai rispettivi set, perché all'epoca se fatta vuole bene veramente da tutti, ricordiamocelo, e praticamente ha detto lei stessa al suo stesso podcast che sta praticamente organizzando il proprio funerale, perché dice: so che me ne sto andando. Lei dal 2015 ha combattuto con un tumore al seno che all'inizio sembrava essere stato in qualche modo sconfitto, ma una recidiva l'ha praticamente portata al quarto stadio, quindi è una situazione, come dire, ineludibile, inevitabile, e lei se ne sta in qualche modo facendo una ragione, si sta preparando alla fine di un percorso, lei comunque è giovane, e dice: sto organizzando il mio funerale in maniera un po' spiazzante, ma l'ha detto in maniera tra virgolette serena, probabilmente anche con tutte le ammissioni collaterali, perché ripeto, nella sua carriera di attrice si è fatta conoscere e vuole male, passatemi il termine, più di una volta per le sue intemperanze, il suo carattere, il suo atteggiamento, tant'è che è stato alcolismo, defenestrata prima dal cast di Beverly Hills e poi anche da quello di Streghe, e poi di fatto non ha più lavorato anche per quello, però ha fatto Generazione X con Kevin Smith, ma non mi ricordo, sì è nel mezzo, si era già stata, sì. Come età era all'epoca di Beverly Hills, poi se era stata già cacciata dal set o meno, non lo so. Di Streghe non lo so, vabbè. No, Streghe sicuramente è stato dopo. Sì. Sì, però vabbè, al di là di questo, mo mi è venuto in mente proprio di fare una digressione sulle serie, i teen drama americani che tanto andavano di moda, diciamo forse negli anni 80 un po' meno, però negli anni 90... Sì, sono esplose, sì. In un certo modo Beverly Hills è stato il capostipite, però poi ricordiamo altre perle come ad esempio Dawson Creek e D.O.C. di Orange County. Ora non so, però D.O.C. è più recente, sono anni 2000, sì. Abbondanti. Sì, infatti io dico a cavallo tra, allora, primi anni 90 Beverly Hills e poi anche derivati tipo Melrose Place e altre. Poi c'è stato il a cavallo del nuovo millennio. No, quello è Furia. Blücher. E Blücher, esatto. E poi nei diciamo 2000 inoltrati, ma penso prima del 2010, c'è stato D.O.C. con bella regalo Sandy Cohen, che poi un giorno vi racconterò. E niente, allora mi è venuto in mente di fare questa... No, mo' racconti, scusa. Si può. Dopo i grandi classici del ridoppiaggio di Beverly Hills da parte dei Profilax, Sì, okay. Un altro gruppo romano, però questo non si trova, io però tutto salvato su Pennetta, ha ridoppiato gli episodi, credo il primo episodio di D.O.C. E questo gruppo si chiama Vigneanove Remake. Aveva creato questi tormentoni, prima di tutto il protagonista non veniva dal quartiere malfamato, dal quartiere periferico di Los Angeles, per poi andare a finire a Orange County, bensì era praticamente un ragazzo originario di Fidene che veniva mandato dai ricchi a Vigneanove. E c'era questa particolarità, a parte tutti i vari tormentoni, tipo che a Vigneanove non si possono portare i pacchetti di fazzoletti in macchina perché sennò t'arrestano. C'era questa cosa particolare, che ogni volta che inquadravano l'attore che interpretava il capofamiglia che se lo metteva in casa, l'avvocato, che appunto il personaggio era Sandy Cohen, partiva subito l'inquadratura e subito lui diceva: bella regà, sono Sandy Cohen, ogni volta che veniva inquadrato. E questa cosa per anni ha creato il tormentone. E infatti Simone ci manda la versione, la prima di quattro parti di Vigneanove Remake. Però attenzione, provate ad ascoltarla, però se mi ricordo bene, a meno che non sia stato un reload, era stato fatto lo strike down della traccia audio della prima delle quattro parti. Ah, beh, può essere, può essere. Quando premi play non si sente niente, ma qualora fosse, io ce l'ho tutto. A vedere il navigatore satellitare. C'è l'audio. C'è. Ok. E vabbè, se ne prendi un pezzetto anche subito, si capisce insomma l'entità. È passato un po' inosservato rispetto ai Profilax. Fa bene la pelle, fa bene i capelli. Però secondo me anche questo ha tutta la sua dignità di parodia. E me lo mettono i preferiti. Michela dice: io adoravo Beverly Hills e sarò forever team Brenda. Mamma mia, io l'ho guardato poco, però mi ricordo, c'è un aneddoto su questa cosa, perché una volta eravamo a casa di una amica nostra, diciamo della ragazza di un nostro amico che aveva casa a Campo dei Fiori, Ah, coglioni. Hai capito come? Cioè, dentro sto palazzo, per i non romani, tanta roba, insomma. Sì, sì, vabbè, è roba. Molto Roma Nord, giusto? Beh, no, è proprio Roma Centro. È centrissimo. Campo dei Fiori. La statua di Giordano Bruno. Esatto. Immagino che una casa a Campo dei Fiori possa costare anche. Boh. Un essere umano, esatto. Forse anche un essere umano non vale niente in confronto, cioè deve essere un cardiochirurgo. Esatto. Se lo vendi a tranci, sì, no, un cardiochirurgo dentista, anche esatto. un cardiodentista, un dentichirurgo. Esatto, un dentichirurgo. Vabbè, comunque, dentro sta casa praticamente mi sono trovato. C'era questa, vieni alla festa mia, il compleanno, va bene. Io ero in una fase della mia vita in cui stavo per entrare in una modalità di oscurità totale. Incredibile, proprio un momento brutto della mia vita, però ancora non ero proprio entrato in questa fase qui, e quindi alla fine ho partecipato a questa festa che, secondo me, in quel momento della mia vita ha creato un ulteriore innesco verso l'isolamento e l'odio verso l'umanità, perché praticamente c'era questa cosa da tipo film americano, da veramente film newyorkese, dove c'erano questi party, dove c'era la musica jazz, tutti che camminano, chi seduto sul divano, chi da una parte, chi s'appropria dei pezzi di casa, chi faceva tutti come cazzo gli voleva, con queste tartine, con queste cose, roba del genere. E c'era sta ragazza che parlava del fatto che Beverly Hills c'era un valore sociale, era importante dal punto di vista sociale perché trattava dei temi che altrimenti non si tratterebbero in televisione, tipo le noci di cocco. E io ho detto tipo la droga, e lì a posteriori, quando io vedevo poi Boris anni dopo, mi veniva da ridere, capite? Cioè, perché la droga, cos'è la droga? L'aborto e la droga, bravo, esatto. Cioè, questi erano i temi sociali trattati da un telefilm de merda, cioè nel senso per un teenager andava bene, cioè era carino, io sì, immagino, insomma, io non l'ho guardato poco perché innanzitutto c'erano dei protagonisti che era doppiato da Puffo Quattr'Occhi e la cosa era insopportabile. Qual era? Il fratello di Brenda. Cazzo, era Puffo 4. Oh, ma come, so, chi era? Il doppiatore. Il doppiatore di Brandon era Puffo 4 occhi, oh, raga. No, ragazzi, Brandon lo doppiava come si chiama? Vabbè, adesso ve lo trovo, però no, non era Puffo 4 occhi. A me mi sembrava che era Puffo 4 occhi, parlava proprio come Puffo. Marco Guadagno. Quindi vabbè, comunque vabbè, dai, io non... E poi c'erano tutte queste espressioni così caricate, con i sopracciglioni, cose. Insomma, no, non mi piaceva, a me non piaceva, no. Però devo dire che in effetti da lì in poi ne sono uscite tantissime delle teen opera, fino ad arrivare forse a quella, la più bella di tutte, che è Teen Wolf. Guarda che su Paramount va fortissimo, sempre tra le serie più visite. Sì, ci hanno fatto anche il film, ho visto, c'è pure il film di nuovo. Poi magari, ma è stato guardato da milioni di persone, una roba impressionante. Vabbè, questo non vuol dire niente. Comunque, ragazzi, se posso intromettermi, penso che poche cose al mondo come i teen drama americani mi abbiano fatto venire voglia di fare il tifo per l'Unione Sovietica. Che ancora oggi, cioè, a parte che a me quelli, io mi ricordo Beverly Hills è entrato nei palinsesti televisivi che io facevo il quarto ginnasio, il primo anno delle superiori. Partite già dal presupposto che io sono andato a scuola tipo un anno e mezzo prima, quindi ero tipo sempre il più piccolo della mia classe, e mi ricordo che i miei compagni di classe non parlavano di altro, e sta cosa, vi giuro, Puccio, ma è legale andare a scuola un anno e mezzo prima? Non più. Ah, prima sì. Sì, sì, è vero, si faceva, è vero. La primina, ok, ma addirittura un e mezzo. Però, col millesimo, sì, con la primina, a volte saltava. Fare 5 anni. Eh sì, considerate che io ho preso il diploma che avevo fatto 18 anni da 2 mesi. Vabbè, comunque, un anno e mezzo, sai, un anno e qualche mese. Vabbè. Comunque, insomma. Quindi, beh, a parte sta roba, ma cioè, quello che vi giuro, cioè, sta cosa mi puzzava di omologazione forzata all'epoca, che non avevate l'idea. Vabbè, era l'inizio. Era l'inizio, se non lo guarda poi, vabbè. Vabbè, ma questo è generazionale e vale per tutto. Qualunque programma TV che fa un po' di successo e porta la. Sai, cioè. Io guardavo la Breaking TV Bad, Game of Thrones è la stessa cosa. Se non hai visto Breaking Bad, non hai visto Game of Thrones, non capisci un cazzo, non sei nessuno, non puoi se degno di parlare. No, però cioè, secondo me lui poi fa più un discorso legato al fatto che quello che ti trasmette è una vita così stereotipata, sì. No? Che poi alla fine, che poi alla fine è Happy Days, cioè nel senso non è che queste cose sono sempre state. Cioè tu pensi a Happy Days, è vero che oggi lo guardiamo con gli occhi di oggi, però io pure quando ero ragazzino, cioè vedevo il teppista, cioè Fonzi doveva essere il teppista, quello che ascolta il rock and roll, l'uomo del diavolo, e che faceva lui così, cioè c'aveva il giubbotto di pelle, faceva ehi. Ma infatti l'hanno inserito quasi come macchietta, dopo due o tre puntate hanno visto che funzionava molto più di Ricky Cunningham e l'hanno fatto diventare il protagonista, ma non era previsto da quello che so, eh. No, ma difatti già in Happy Days. E salutiamo sempre, sempre il grande fratello Chuck Cunningham. Che chi? Cosa che mai visto? Praticamente chi? L'hanno fatto sparire. C'è nella prima stagione. Certo. No, nella prima puntata. Cioè, no, no, no, no, no, no, prima stagione. Ah, io non ricordo. Cioè, vedi, l'effetto Chuck Cunningham. Esatto. Chuck Cunningham. Esatto. È così. No, no, in realtà c'era salutiamo, tutto. Salutiamo. Ciao, Chuck. Ma l'attore l'hanno mai intervistato ad anni di distanza? L'attore è mai esistito? Questa è la domanda. È stato cancellato. È stato deportato a Guantanamo dopo la fine della prima stagione. Ah, dice giustamente, c'è Luca Veste, ci dice che gli italianti doppiaggi di Star Trek, che non ho mai sentito. Star Trek, le vado a cercare. Un pollicciotto sulla fiducia, ma devo se andiamo, non so bene di che andiamo a cercare, andiamo a cercare. No, comunque, vabbè, ragazzi, come dire, ce ne sono casi di personaggi fatti sparire nel nulla. Il caso di Brenda è proprio la palissiano, perché Brenda sparisce dalla fine di una stagione all'inizio dell'altra con il più classico dello Dimo, per tornare a Boris, perché evidentemente la rottura si è consumata tra una stagione e l'altra, e niente, lei a un certo punto era andata a, mi pare, in Francia a studiare francese per un anno, fine del Brenda. Non so se vi ricordate cioè come invece viene fatto sparire il personaggio di Kevin Spacey in House of Cards. Ma no, morto. Perché non l'ho visto, non si è svegliato me. Morto dico. No. Io non l'ho mai visto la stagione, semplicemente tu lo sai perché è morto, cioè non c'è più. Vabbè ragazzi, ma questo è successo da quando io ho memoria, cioè sì, ogni tanto serie televisive dove c'erano personaggi anche importanti che improvvisamente non... e ragazzi, no il peggio è quello è stato Charlie Sheen in Two and a Half Men, dove siccome aveva veramente esagerato troppo l'hanno dovuto far sparire, solo c'era un piccolo problema, lui era il protagonista della serie, quindi si sono dovuti inventare un protagonista alternativo e l'hanno dovuto far morire fuori dalle scene con un lodimo e farlo tornare, farlo vedere alla fine dell'ultima puntata, nel finale di serie di spalle, sì, perché esatto. Lui viene dato per morto, poi alla fine si racconta che in realtà non è morto, è stato rapito dalla ex moglie pazza e tenuto prigioniero vicino di casa in realtà, poi non è che l'ha rapito, fossero scappati alla fine insieme, alla fine si è deciso di scappare con Rose, che era quella che cercava di rapirlo da anni, no? E alla fine poi lui quando si ripresenta a casa viene ucciso da un pianoforte che cade, esatto, dall'alto. Perché Chuck Lorre, tra l'altro padrino di Big Bang Theory, aveva questo rapporto con Charlie Sheen che penso l'avrebbe voluto ammazzare sul serio, non in scena, quindi ha voluto liquidare il personaggio una volta per tutte. Comunque questa è una cosa che è sempre successa. Però attenzione, in particolare succedeva pure nelle telenovele. Non è mai strana la scomparsa di un personaggio quanto la ricomparsa di un personaggio che era morto, come tipo Bobby Ewing, ragazzi, l'attore ma non il personaggio, nel senso che cambiano la faccia al personaggio. Quello l'hanno, ogni tanto capitava anche quello, in effetti, no? Magari succede? Cercavano di pettinarlo nello stesso modo. In Italia eravamo avvantaggiati perché gli davano la voce dello stesso doppiatore, quindi alla fine ci passavi un po' sopra, diciamo così, no? Però il bello è che dopo 15 anni dalla morte di Bobby Ewing e lui a un certo punto te lo ritrovi in macchina tranquillo, come che è successo? Successo la doccia con l'asciugamano, fa tutto bene. Che cazzo si poi si è venuto a sapere che era tutto un sogno, tutto quello che era successo negli anni precedenti era tutto un sogno. No, c'è anche poi a un certo punto viene tirato fuori la realtà parallela, il quadro, cioè c'è una serie Vabbè, però quella di Dallas fu un colpo di teatro veramente, cioè fu la prima volta, quindi il capostipite di una serie di espedienti narrativi che fino ad allora non si erano usati, quindi tu ci rimanevi comunque quasi sorpreso. In qualche modo c'era l'accettavi perché la tua mente non l'aveva mai potuta ponderare una cosa del genere. No, vabbè, però su Dallas il primo è stato bellissimo, perché la prima serie di Dallas, che era quella veramente figa, che facevano sulla Rai, poi dopo quanto è bella, che a un certo punto c'era il vecchio che muore, voi ricordate il vecchio muore, ma muore veramente, cioè muore l'attore, quindi da una puntata all'altra questo non c'è sta più e tutti oddio è precipitato l'elicottero, cioè, manco la briga di fatte vedere l'elicottero che casca, succede, costava troppo per l'epoca, vabbè, ma anche in qualche immagine del repertorio recentemente nella serie televisiva Rizzoli e Isle, che praticamente era Rizzoli e Isle è una serie televisiva con due poliziotte, fino da 10 anni, Marco, vabbè, però, recentemente, vabbè, rispetto a Bobby Ewing, insomma. Ewing, chi è Ewing? Io l'ho mai visto. Praticamente uno degli attori che interpretava i poliziotti, che era depresso, a un certo punto decide che è meglio spararsi, però nella vita reale, non nel film, nel telefilm, e quindi praticamente da una puntata all'altra oddio è morto in un incidente d'auto, mannaggia, cioè per forza è così, l'attore dei colori, il detective, quello brutta, nero, perché nero, non mi ricordo come si chiama, quello si è ammazzato, perché l'ho vista quella serie, però non sapevo, non mi spiegavo cosa fosse successo, ma lo sai, insomma, poveretto, gli hanno messo il guardian sulla scrivania come feticcio. Sì. E comunque sempre mano sul petto e onore a Tasha Yar, insomma, che rimarrà nei nostri cuori, come clone, gemelli, altre cose. No, è tornata in diverse occasioni perché alla fine il personaggio piaceva, però doveva essere proprio un personaggio insopportabile, lei si ammazzava de droga, il problema è che stava sempre sotto botte, quindi sul set non la teneva. Non Patrick Stewart l'ha raccontato tantissimo, che lui dice sì, è vero, erano tutti molto più giovani di me e io prendevo il lavoro seriamente, gli altri magari si erano anche divertiti, cioè, però lei era ingestibile, cioè nel senso era una cosa, e poi alla fine quasi una Carrie Fisher in salsa Star Trek, che poi voglio dire alla fine era un'attrice di merda, cioè nel senso ma erano tutti abbastanza esordienti quando sono arrivati su quel set, non è che stiamo a parlare di gente che aveva diciamo un trascorso, tranne Patrick Stewart che ce l'aveva teatrale, non stiamo parlando di attori di lungo corso. Patrick Stewart ha fatto già bei film, cioè, no, senso, a parte lui ha fatto Excalibur, Excinsibur, cretino, De Cuius. Ragazzi, comunque, visto che siamo in argomento, se vi capita, parlando di podcast fatti con molti più soldi di quanti mai. No, ma non parlate degli altri podcast. Un altro po', anche perché è una trasmissione che va anche su altri media, ma poi viene riprodotta in podcast. Se vi capita Tintoria, cioè la puntata con Pietro Sermonti. Sto vedendo tutto Tintoria. C'è la puntata con Pietro Sermonti, che a un certo punto parla del suo personaggio. Magari in discoteca. Bello, bello, bello. C'è Sermonti che parla della morte del suo personaggio in Un medico in famiglia. Ora, se voi, io non ve lo posso raccontare, non sono così bravo, però se vi capita, sostanzialmente lui dice di aver detto le stesse cose che poi dirà nonno Ugo in Boris. Sentite, fatemi morire fuori scena, non voglio più venire a sentire parlare di questo personaggio. A proposito di Tintoria, non passa giorno, e vi assicuro, non passa giorno che non mi arriva un messaggio privato di qualcuno che mi dice: oh, ma lo sai che su Tintoria J-Ax ha parlato di archeologia informatica? Sì, cazzo, è vero. Cioè ogni giorno mi arriva, sì, non ti preoccupare, lo sappiamo, insomma, vabbè, comunque poi uscirà un'intervista fra poco, insomma, fra qualche giorno. No, comunque sì, Tintoria, che diciamo è una sorta di comedy teatrale in cui due protagonisti, uno è Rapone, il comico romano, l'altro non me ne ricordo, ogni volta intervistano per un'ora e mezza, quasi due, un ospite, e sta diventando veramente importante. Ci sono veramente episodi che hanno milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è entrato nel circuito dei podcast di One Podcast, quindi del gruppo Jedi, quindi ha una certa rilevanza. Ma io faccio nota a due cose: che c'è l'alternativa più romana ancora, che si chiama Decore Podcast con Danilo da Fiumicino, che è un po' più poveraccia come produzione, però merita la sua dignità, e non solo, è che lo registrano al Riverside a Montesacro, che è un locale al quale abbiamo lavorato anche noi, gli abbiamo creato l'immagine, il locale l'ha creato un architetto che collabora con noi, quindi diciamo lo sentiamo un pochino figlio nostro. Piezzecore, hanno piazze core. Invece c'era Puccio che voleva portare un messaggio sociale, etico. Sì, un messaggio sociale, stanno sparendo. Non è tanto che stanno sparendo le edicole, stanno cambiando le edicole. Diciamo che anche stanno anche sparendo. Oh, stanno sparendo e anche grazie a Dio in alcuni casi, diciamoci la verità. Poi dopo sì. Nell'insieme come rappresentazione di un nostro pezzo di storia ci dispiace, però se è per alcuni edicolanti, insomma, io sono contento, devo dire la verità. Allora, sentite, premessa, io vivo in un paese di circa 30.000 abitanti dove, diciamo, per la media c'è anche un numero di edicole e librerie abbastanza alto, no? Ce ne sono 5. Questo per far capire che al sud c'è cultura, capisci? No, ma che, o meglio, non è. Novella 2000 va tanto. Novella 2000 vende tantissimo. Ma ancora esiste Novella 2000? Certo, di sì. Perché no? Però quando ero ragazzino io era pieno di zinne comunque, cioè proprio anche come... mo. No, però dai, è diverso. Adesso è diverso, è più politicamente corretto. Adesso fanno più io certe smanettate con fanno più 2000. Rumore le persone vestite, quindi ci mettono le vestite. Ah, è vero, cioè, è vero. Adesso è diverso. E infatti quando vedi le persone vestite, Dio, questo quanto è il vestito, ma è uguale, è vestito, guarda là che bel dai, che c'ha. Freddi, uguale. Però solo quando è vestito. Ma che quando io avevo 13 anni pure il postal market andava bene. Quello è famoso, il postal, le pagine incrostate del postal market. La carta veniva scelta attentamente nei cataloghi. Era anti-appiccico. Ricordate la musichetta, no? Con postal market. E postal market. Perché era la gran festa? Chissà perché. In pratica, che è successo? Non lo so. Che è successo? A me mi piacciono i libri proprio come oggetto fisico quando posso. E come tutti sapete, c'è la collana di Mondadori Urania che esiste dall'alba dei tempi. E che ci ha sempre avuto una distribuzione in edicola, soprattutto le copertine, soprattutto quelle fatte con molta fantasia dagli autori italiani che non avevano letto il libro, ma di questo parliamo in un altro frangente. Che è successo? Che insomma Urania ci ha sempre avuto una distribuzione in edicola che è sempre stata abbastanza capillare, lo trovavate più o meno dappertutto come trovavate gialli Mondadori, non è mai stato un problema trovare Urania. Che sì, è successo? Tra l'altro bellissime copertine Urania, sempre bellissime copertine. Spesso proprio opera di fantasia al 100%. Anche lì certe smanettate. Pure quei robot. Esatto. Nel nudo robot. Esatto, l'alieno. E gli alieni con tre zinne di... Cazzo era? Vabbè, ricordiamoci pure quella famosa avventura testuale, quella là, Phobos, Robos. Le schiave sessuali, esatto, di Phobos, sì. Là, sì, mi ricordo. Me l'ha raccontato un amico, io non ci ho giocato. Allora, dicevamo, in tutto questo, testate tipo Urania, tipo gialli Mondadori, più o meno si sono sempre trovati in maniera abbastanza facile. Io non li compro regolarmente in edicola, più delle volte li compro in formato digitale, sennò prima o poi mia moglie mi caccia di casa e già siamo lì lì per insomma, lo spazio che occupo. Stavo cercando però fisico il numero di Urania regolare 1722 di questo mese. Mi sono accorto che 5 edicole su 5 non ce l'avevano, non era arrivato. Quelli con cui ho più confidenza ho chiesto, ma cioè, come mai sto mese niente? Fanno, no, Puccio, non è che sto mese non è arrivato. Gli speciali, quelli che costano di più, quelli blu e quelli grigi, cioè i volumi più grossi di Urania, quelli rilegati meglio, ce li mandano quasi sempre. Quelli regolari hanno iniziato a mandarceli quando gli pare, così, random, ogni tanto ce li mandano, ogni tanto no. A seconda di come gli puzza il culo, dai. Come puzza il culo stamattina, così, allora io mando. Sì, ogni tanto qualcuno gli gira il cazzo, dice oggi in questo paese non ne mandiamo manco una copia. Gli stronzi maledetti. Sì, il problema è stato che sono stato anche a Bari per motivi di lavoro, sono girato 2-3 edicole, pure loro non l'avevano avuto. Ho detto, sarà stato un problema con questo numero in particolare. Poi ho indagato, perché la cosa mi sospettiva, sono andato a vedere un po' tra gli appassionati di Urania. Pare che in realtà questa idea di distribuzione così ballerina sia in atto un po' in tutta Italia. Ci sono zone dove non arrivano proprio i numeri, zone dove a volte arrivano a volte no. Allargando ancora di più la ricerca è venuto fuori che questa cosa si può dire anche di diverse altre riviste anche storiche che escono in Italia. Di contro, per questi problemi di distribuzione che ci sono, stanno sorgendo proprio tipo funghetti queste edicole elettroniche che ti vendono le uscite regolari da edicola via internet te le spediscono direttamente a casa. Ho cercato di parlare con gente che sta nel circuito della distribuzione, che nel corso degli anni, quando gestivo con gli amici il forum di Comicus, mi sono fatto amica, e che effettivamente mi hanno confermato che esiste un grave problema di edicole, a parte il fatto che chiudono, che insomma è un fenomeno sotto gli occhi di tutti, cioè proprio un fenomeno che sono o troppo piene di roba o non ce la fanno a gestire determinati tipi di uscite, quindi roba che prima veniva distribuita capillarmente in tutta Italia adesso viene mandata in maniera un po' più targettizzata. Quindi se non vivi in un posto dove una determinata rivista viene comprata regolarmente in un paio di edicole da un certo numero di persone, rischi che da un mese all'altro non la trovi più, e se ne vuoi una copia devi rivolgerti a qualcuno di questi servizi digitali che sono spuntati negli ultimi anni. Un edicolante, uno di quelli con cui ho più confidenza, mi ha fatto un esempio che è legato ai videogiochi, cioè una serie di uscite su Mario, Zelda, sono dei volumetti storici rilegati, ora non mi ricordo il nome della collana, era già uscita e sta uscendo adesso in edicola, in realtà è stata già distribuita un anno fa, ma era stata distribuita soltanto da Roma in su e nessuno ha mai capito perché. Quest'anno la stanno ridistribuendo, però soltanto da Roma in giù, probabilmente perché hanno fatto tipo un lancio di prova nelle regioni più ricche, avranno visto che è andata bene e probabilmente poi hanno tentato di distribuirla anche nel meridione. Quindi in un certo senso si è perso quel senso di, non dico di unità, di omogeneità, cioè sapere che in qualsiasi edicola del paese dove andavi avresti trovato questi sono discorsi però da affrontare su due livelli, cioè nel senso il fatto che tu comunque sei abituato magari anche per tradizione andare nel posto dove nel tuo paese andavi a prendere riviste, e oggi questa cosa non è più tanto possibile perché la maggior parte delle riviste sono distribuite su ordinazione, perché questo è, ragazzi, cioè nel senso no ma per esempio gli Urania regolari non li puoi ordinare, cioè te li mandano e basta. Io ho chiesto, scusate, ma se te lo chiedo me lo fai arrivare? No, deve diventare arretrato e io te lo posso ordinare come arretrato, cioè se ne parla il mese prossimo. Vabbè, questo sarà un approccio alla distribuzione peculiare di Mondadori, che magari lo fa in autonomia e non ha un distributore di quelli che poi centralizzano tutto il resto. Tra l'altro io stavo pensando che tutto questo potrebbe trarre origine in una questione un po' spinosa, cioè le edicole stanno chiudendo perché vendono sempre meno prodotto a causa del fatto che il prodotto di riferimento, che sono di base i quotidiani settimanali, sono sempre più carta da culo oggi o come oggi. Anzitutto comprare un quotidiano significa anacronismo, perché le notizie ormai si è abituato a riceverle in tempo reale da internet, quindi comprare qualcosa che mi racconta cose successe ieri ormai anacronistico, perlomeno fino a quando non ci metti degli approfondimenti. Siccome i giornalisti italiani ormai l'approfondimento, le inchieste non le sanno più fare, se le fanno o non le vogliono più fare, che è diverso, non le vogliono fare perché se le fanno sono prezzolate. Ovviamente il prodotto base delle edicole crolla e quindi le edicole chiudono perché non vendono. In questo gli editori che riempiono le edicole di prodotto alternativo, che ha comunque tirature minori, hanno un piccolo problemuccio, che è il reso dell'invenduto, cioè l'edicolante non paga le copie fornitegli dal distributore, ma paga quelle che ha venduto effettivamente e restituisce l'invenduto al distributore, e periodicamente viene fatto un calcolo, uno storno, e quindi l'edicolante fondamentalmente ha questa tutela, non ci rimette niente, perché se gli vengono mandate 50 copie del quotidiano X e lui ne vende 10, le altre 40 le può restituire alla distribuzione senza colpo ferire. Paga quello che vende, insomma. Esatto. Beh, ma è sempre stato così, però. Sì, esatto, però qual è il problema? Che quando gli editori avevano la certezza più o meno ragionevole di vendere, esatto, che ne so, l'80%, il 90% di quello che stampavano, il gioco valeva la candela. Adesso, col fatto che le edicole sono poche, che la domanda è minore, magari mettere in distribuzione troppe copie di un prodotto sapendo che c'è il rischio che rimangano negli scaffali li porta ad agire al contrario. Semplicemente non le stampo, distribuisco una tiratura molto più inferiore, a chi gli va bene, a chi non gli arriva, a chi tocca non si ingrugna. Guarda, posso, scusa Puccio, ti interrompo perché giustamente anche per coinvolgere Marco. Marco, quanto te frega tutto sto discorso? Tarda tantissimo, mi sto per tagliare le vene con le foglie di giornale comprate dal libro. No, lo dico perché stava dalle capocciate al muro, No, vabbè, allora. Vabbè, tu dagli un muro più grande così può dare delle capocciate. Esatto, il muro di Berlino. Il cavallo, scusa, così te lo togliere dai coglioni. Cazzo, il cavallo zombie che scappa da un'esplosione termonucleare, tra l'altro. Esatto. Cosa, però voglio dire, tu Puccio, che sei un uomo della modernanza, che oramai insomma, che cazzo, no, io sono vecchio dentro, che cazzo te frega, cioè trova un modo. No, ma ti ho detto, io l'uranio, quello, cioè, io secondo me, se tu vai a una feltrinella, l'uranio, questo numero, cioè come tutti gli altri, io più delle volte li compro per Kindle perché non mi va di intasarmi casa, esatto, con roba che magari leggerò una volta sola nella mia vita e manco mi piace. Se poi vedo che è una roba che mi interessa tanto, magari la ricompro in fisico perché la voglio conservare. Parentesi, tutto sto bordello per cercare questo Urania in particolare l'ho fatto perché è il libro si chiama Un Salmo per il Robot di Becky Chambers, perché io quando ho scoperto questa autrice qualche anno fa pubblicata da Fanucci mi è piaciuta tantissimo, cioè aveva una scrittura fresca, bei personaggi, i temi che trattava non erano scontati, non erano banali, cioè ti devi mettere la felpa per leggere. Ha fatto uscire 2 libri su 3, poi come capita spesso con Fanucci il terzo non si è visto. Questa autrice poi è andata a finire perché se non per cazzo, un po' se non per cazzo, sempre la stessa storia, basta. Che succede? Che questa qui poi è finita nel circuito Mondadori. Il terzo libro della trilogia ancora non è uscito, però questo libro nuovo l'hanno fatto uscire direttamente su Urania. Siccome Mondadori si basa molto sul venduto che fa di un autore per proporre le altre opere, chi aveva la passione per Becky Chambers ha cominciato a farsi il passaparola, compratelo, perché poi Mondadori, se vede che c'è il riscontro, si interesserà anche per gli altri libri. Consiglio spassionato: quando vedete i libri di questa autrice, ripeto, Becky Chambers, e poi ve lo scrivo nella chat, proprio buttatevi tranquillamente, perché tutto quello che è uscito di suo è meritevolissimo di essere letto. Questa Roma avrebbe fatto una brutta fine comunque, cioè, sì, perché tutti gli facevano oh Chamber culo, vedo, ma c'era arrivato questa storia strappa lacrime. Come si conclude? Lo hai poi trovato? infatti. L'ho ordinato da eBay. Oh, meno male, hai visto? Ma guarda che poi io penso che se vai a una Mondadori, a una Feltrinelli, li trovi, Cioè, no, gli Urania serie regolare no. Allora, sai che fai? Scrivi a Urania e dici, cari amici, no, Urania, andatevene a fare in culo. Cioè, non hai una libreria Mondadori a portata di mano? Non arrivano, non ci arrivano, non ci arrivano, niente. Nemmeno la libreria Mondadori. No, Urania. Ma perché Rob? Perché comunque ci tengono loro. È considerato cheap, nel senso gli occupa tanto spazio in scaffale e non è, probabilmente non c'è margine di guadagno sufficiente. Che è cheap e job? No, ma perché un prodotto è un'uscita da edicola. Vabbè, basta. È un prodotto, diciamo, la qualità è bassa, intendo dire, del confezionamento, quindi costa poco ed è anche fa guadagnare poco rispetto allo spazio che occupa al libraio, ecco. Invece, ma caro Marco Gualdi, mi dicono che in India le strade c'hanno talmente tante buche brutte da risvegliare i morti. Eh sì, ma quella è perché la dea Bugalì. La dea Bugalì è la dea Bugatì. No, Bugalì. Arigato. A giapponese. E c'è questa dea, questa nuova dea indiana che ha questo potere, cioè di far tornare in vita i morti. No, i morti, giustamente. Che vivi, se fai tornare in vita i vivi. È tosta. Sì, no, perché altro non ti notano. È un surplus. Cioè, surplus. Tu sei un dio. Qual è il tuo potere, dio? Io ti posso faccio far tornare in vita i vivi. Esatto. Non se ne accorge nessuno. Esatto. Quindi che potere c'hai? Che è un po' come morire per colpa del vaccino, ma da qualcosa che non è riconducibile al vaccino. Esatto, sono schiacciato da un treno. Capito? Okay. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, poi ve lo racconto fisicamente perché... Stasera non è il caso, ma venerdì sera ho fatto una delle scene più assurde. Vedete, a un certo punto ho sbroccato. Al punto tale che non si può raccontare. No, però vabbè, sarebbe notturno. Sarebbe lunga, sì, esatto. È più da Runtime by Night, insomma. Comunque, vabbè. Comunque abbiamo scoperto che in India c'è questa nuova dea che praticamente se muori e vieni messo dentro un'ambulanza, ma deve essere un'ambulanza, poi procedi su questa strada, funziona. Funziona bene, procedi a una certa velocità sacro. Infatti devi procedere anche ad una certa velocità molto particolare su questa strada, dove c'è la dea Bucalì, che tu la prendi e il colpo praticamente di ammortizzatori, di reni, non si sa, praticamente fa ritornare in vita il morto. Ed è quello che è successo a Guti lì, come cacchio si chiama, comunque è un giovane indiano di 80 e passati, come cazzo si chiama, tutto attaccato il cognome, esatto. Esatto. Con l'hashtag davanti, con l'hashtag, esatto. Che c'è sempre, cancelletto. Che faccio metti? Che faccio metti? E praticamente si è svegliato perché lo stavano portando. Si è svegliato in ambulanza. Non ho capito dove lo stavano portando. Forse alla pira crematoria, probabilmente. No, in ambulanza, magari. Gange, esatto, lo stavo per dire io. Dove lo vuoi portare? Allora, c'ha l'ambulanza, c'ha proprio la rampetta. Si ferma in un punto e poi c'ha, capito, il sistema. Perché fai una bruciata prima, non gliela dai. Come la catapulta lì, esatto. Una catapugna infernale. E praticamente sì. È tornato in vita, pare che si sia risvegliato. Bucalì ha fatto Bucalì. Esatto. Vabbè, e quindi hanno fatto il giro e l'hanno portato in ospedale, dove probabilmente è stato ucciso. Dopo, giustamente, ti ho detto che devi da morire. Esatto, perché la via già si sfregava le mani. Insomma, ma pure lo di Bucalì, Magnariso e Cagalì, sì. Probabilmente sì, per farina. Mannaggia alla vostra sanità mentale. Vabbè, dai, comunque mi dispiace per il tizio che è vivo. Esatto, scusa, ma quello stava tanto bene, era morto. Ci teneva tanto a morire. Scusa, sì, anche perché poi sarebbe tornato. A Bucalì si poteva fare cazzi su. Anche perché sarebbe tornato in vita nel prossimo ciclo, invece no. Aveva messo al culo e niente. Sai, perché loro si rincantano. Il ciclo di Shannara. Quindi niente. E con questa messa al culo ritorniamo a Siffredi e in qualche modo si chiude un cerchio. Vabbè, ragazzi, poi ricordiamo, parlando di... ricordiamo il film più famoso di Rocco Siffredi, La biondina davanti, Lo scioccone tutti no, quanti. No, dai. È così. Allora, io quando ero pischello mi faceva anche ridere, però oggettivamente è una cosa in guerra. Cioè, oggi se... Vabbè, raga. Torniamo là alla domanda che mi facevo prima. Questa particolare consuetudine di Siffredi in molti film di la capoccia dentro ai tezzi è veramente qualcosa di feticismo, ragazzi. Ma si vede che all'epoca andava di moda. La ragazza, sì, però sai, cioè alla fine ricordiamo che sono tutte consenzienti e ben pagate, cioè, nel anche, senso, se tu consideri che quelli erano gli anni 90, che quello era sicuramente prodotto con ragazze bulgare, valla a sapere se era contenta di quello che stava facendo, insomma, però. Però mangiava a fine giornata, questo dice sì. No. Quanto mangiava razzismo e becerume in così poche parole. Beveva pure, se per questo. Io mi autodissocio da tutto questo. Dio ci fulminerà, però meno male che non esiste. Cioè. No, poi io c'ho ancora questa immagine di queste ragazze con tutto il mascara sfatto, tutte che. Dai, cioè, brutto, dai. Mamma mia, no, io. Cioè, onestamente, da spettatore, la cosa non è minimamente eccitante, quello voglio dire. No, poi, è brutto. Assolutamente. No, ma è vero, cioè, se ci pensi oggi è. È al limite è anticlimatico, no, ma dai, è proprio deprecabile, su, sì. Come atteggiamento, perché mo, se tu hai una ragazza italiana che ti dice sì, io sono consenziente, ammette la mia capoccia dentro la tazza del cesso, vabbè, non lo guardi, allora, aspetta, non lo guardi uguale, secondo però secondo me lo farebbero parecchio, sì. Quella sì, è terribile, ma per carità, qualcosa, però oggi lo farebbero parecchio. Ma oggi col fatto che tante di queste ragazze alla fine lavorano con i fans, non c'è manco bisogno di fare tutte ste manfrine, no, farebbero da sole. Siamo nel periodo della disintermediazione, come ha detto qualcuno. Bravo, questo è un termine, disintermediazione, bello, mi piace. E lo considero, insomma, come un atto di civiltà, questa tua parola che hai insegnato a noi. Quindi, cioè, che lavoro fai? Io disintermedio le cose. Comunque, tra l'altro, abbiamo parlato, insomma, di persone che organizzano il proprio funerale. Volevo mandare anche un pensiero al nostro caro amico Sven Goran Eriksson, che poverino, povero, ha ammesso di avere meno di un anno di vita. Mi è piaciuta l'intervista che hanno fatto quelli delle Iene, dove lui, quando gli domandano per cosa vorresti essere ricordato, lui ha detto di essere un bravo uomo, una brava persona, insomma. Dire che c'è stato. E secondo me lui, infatti, devo dire che anche per un mio amico che l'ho incontrato ripetutamente, che gli portava i fiori a casa, ha detto che è sempre stata una persona molto garbata, molto Sì, sì, non ha mai dato in escandescenza. Sarà che essendo del nord Europa, proprio per indole, no? Sono molto più educati che noi. Poi, insomma, per carità, a Roma è stato un personaggio importante, ma credo anche lui, anche alla Samp, ha allenato tanto, giusto? Sì, sì, poi lui è stato CT della nazionale inglese, insomma, vabbè, comunque lui ha detto io ho fatto il lavoro che volevo fare, sono stato felice nella vita, quindi non... Cioè, certo, dice, non è che nessuno vuole morire, però... dice no, come... certo, il discorso in generale, poi ci ricolleghiamo anche a quello che ha detto Shannon Doherty, no? Cioè, sapere che ti devi preparare, secondo me la cosa più difficile è questa, sapere... Conoscere il tuo orizzonte temporale, no? Sì, sì. È veramente brutto. Cioè, io non vorrei sapere né di stare morendo né di dover in qualche modo fare una sorta di chiusura di conti, delle cose in sospeso, perché ho un orizzonte temporale più o meno finito. Sarebbe angosciante, anche perché poi mano a mano che il tempo si assottiglia sta sempre peggio da un punto di vista emotivo, mentre ovviamente stai male anche da un punto di vista fisico, perché è chiaro che il male degenera al punto tale da renderti comunque, diciamo, sempre più difficile. Beh, certo, vivere, certo, no? Poi alla fine peggiori, perché chiaramente peggiori, anche se dicono che comunque c'è tutto un percorso, cioè le varie tre fasi dell'accettazione, quindi sai, alla fine è sempre un percorso abbastanza delicato. Ma io non volevo arrivare neanche a questo, volevo solo fare un grosso in bocca al lupo. Dai, dai Svengon, che insomma noi lo chiamavamo Svengon con amici. Svengon, tra amici. Oddio Svengon, facciamo così. Vabbè ragazzi, io approfitto perché visto che io mi devo operare la cistifelle. Ah ok, tu dovesse succedere la scheda video, Puccio, la scheda video. Sì, fatemi una puntata di Runtime dedicata in cui scherzi, disintermediazione, okay, vabbè, come vorresti essere ricordato l'uomo, come disintermediazione, come l'uomo che disintermediava le cose, vabbè, l'uomo vabbè, che disintermediava la gente proprio. Puccio, che questa cosa ti sia d'augurio, sappi che ti devi mettere in coda perché ha priorità, diritto di priorità William Shatner, quindi lo so, non è che puoi morire prima di lui. Guarda, no, io non ci metterei la mano sul fuoco, devo dire. Non ti sto dicendo che dobbiamo chiudere la trasmissione missione se io non sopravvivo all'intervento, che ha un tasso di mortalità, ripeto, dello 0,01%. Ma è altissima, ma che scherzi, io mi cagherei sotto, quindi... vabbè, comunque tu, cioè, scrivilo da qualche parte che la scheda video, quando morirà Shatner potremo chiudere questa catena di trasmissioni perché gliel'abbiamo giurato, però io non è che chiedo di essere trattato come Shatner, del resto io non faccio i dischi con le canzoni di Natale ogni anno, mamma. Chiedo di non essere. Però se tu ci richiedi, conoscendoti non bevi nemmeno il barbun. Potrei ricominciare. Il barbun, il barbun, lui è il barbun. Comunque Buccio, se vuoi noi possiamo fare una cosa, faremo una colletta per mandare le tue ceneri in orbita. Se vuoi questo lo possiamo fare. Assolutamente sì, però non con un razzo di Elon Musk. No, no. Va bene ragazzi, io direi che potrebbe non arrivarci. Direi che per questa sera ci siamo stati, finalmente abbiamo fatto una puntata con del contenuto. Questa è una cosa che mi assodiamo che Andrea Trevisan questa sera non viene. No, no, no, l'abbiamo aspettato perché c'erano delle domande per il tecnico del computer. Ma non è che è scappato con dolore? Con Mercedes. Con Mercedes, infatti, no, no, però Mercedes ha chiesto di partecipare una settimana sì, una settimana no, perché così le domande si accumulano. Ci sono, okay, okay, sono okay, domande okay, che stanno diventando delle telenovelas, ragazzi. Quindi, insomma, vedremo delle belle. Vi ricordo di partecipare ovviamente al Sanremo, anzi Sanremo 2024. E vi ricordo che domani mattina tutto ricomincia come sempre, perché domani che è giovedì, quindi c'è le orazioni della sera alle 6, che giustamente sarà della sera, perché sono alle 6? È perché so la replica di quello che è successo le oggi. Le orazioni della sera prima. Esatto, bravo. E poi tutto quanto, trick e ballac, e poi niente, non c'è niente di particolare domani, quindi non... Però ragazzi, un saluto all'amato e ormai compianto libro game, fatemelo dire. Ha finito? Questo, che oggi è finito. Me lo so perso il finale, oggi dopo stamattina me lo... Ma è veramente il libro game più divertente che abbiamo giocato con Leo finora. Questo sì, perlomeno a gusto personale, ma penso di sì, essere condiviso dagli altri. Sì, sì, sì, era carino. Anche perché poi i libri game che si prendono troppo sul serio, giocarli in radio secondo me non funzionano. Cioè... Comunque ha detto Leo che il prossimo sarà un'avventura investigativa, probabilmente un noir. Quindi torneremo okay, a essere un po' seri. Ok, il priore che investiga. Va bene. Allora, io vi ringrazio per questa puntata. Vi ricordo mercoledì prossimo alle ore 21 saremo sempre qui. Vi ricordo. Non lo so. Infatti, cioè, allora, venerdì prossimo potremo essere sempre qui. Ma no, no, io ho cognizione di causa, mercoledì non ci sarò. Ah, non ci sei proprio? No, no. Attenzione. Come vuoi essere ricordato? come un uomo che voi, insomma. Vabbè, dai, ci inventiamo qualcosa. Fatemi un coccodrillo come d'uso a tutti quelli che sono i fork e gli spin-off di Morti di Bestemmie. Bene, bene, okay. Bene. Allora, ragazzi, venerdì mattina nei vostri feed ritorna quello lì, come si chiama? No, allora Pizzi. No, niente, no, niente. Ti spiego vabbè, perché spiega, deve perché tornare perché domani, io devo chiudere la trasmissione. Pizzi dai. Deve tornare domani. Domani. Questa con edizione particolare. Ah, domani mattina esce. Esatto. E qui non faccio il tempo, vabbè. Fatto, è tutto pronto. Tutto a posto. Quindi, domani mattina esce una nuova puntata dopo un po' di pausa di Ho visto cose. È una puntata speciale. Esce di giovedì. Perché domani esce. Viene sbloccato. No, Activity. Che si sa perché esce domani, che è una bellissima produzione di Amazon. Immagino. Tanto ne parleremo dopo. Perfetto. Venerdì mattina invece alle 7 torno live io con quello là, come si chiama? Il Grande Reset, che però ancora non ho ben deciso, insomma, di che cosa parleremo. E poi, vabbè, o sabato o domenica saremo io e Michele e tutto il resto del Runtime Radio, che è tutta cricchia e ballacca, insomma, torneremo gagliardi. Invece domani alle 8, come sempre, alle 20, anzi, diciamo le cose come stanno, Walter Sbano con le orazioni della sera, con l'ultimo appuntamento della settimana. Io ringrazio e saluto Carmine Puscio Console. Ciao. Grazie per la tua riflessione su Urania, che c'è veramente, guarda, bella, proprio ci interessa. No, scherzo, no. Dai. scherzo. Walter Sbano. Grosso numero, però. Walter Sbano che abbia... è già andato via. Ubriacatevi. Ok, e Walter Sbano che abbiamo capito che si guardava Beverly Hills. Walter Sbano... io lo so, sì, che non, fino a un certo punto forse un po' devo guardare anni, però sì, un po' l'ho visto. Vabbè, un po' devo guardarmi, dai. Tra l'altro Walter Sbano tu Gatta Cicova, non ce la racconti giusta. Walter Sbano, io do Cecov e sua moglie Gatta Cecova. Esatto, io do un quadrato Sbano, ci stai a coglione a tutti quanti, eh. Marco Gualdi, ciao. Come potete essere ricordati? Io? Ma io? No, questa è una domanda che lascio al pubblico. Ah, ok. Voi pubblico. Pubblico. Come da domani, come vorreste che noi vi ricorderemo? Ricordassimo. Ciao a tutti. Ciao. Notte.